ti saluto, va, mo cambio canale, ma da sette zapping, che dicono meno cazzate di te, va. Mi sento zapping, certo. Ciao, Gruccia. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. La popolazione italiana è fatta dall'80-90% di eterosessuali e il 10% e il 20% di omosessuali. È possibile che nella sua trasmissione si parla 90% di gay? Allora, c'è una questione che riguarda il ministro Lupi, come sapete, no? Abbiamo sentito male quell'intercettazione, abbiamo letto male, o è inserita in un contesto più ampio, oppure Lupi che dice a Incalza, devi vedere mio figlio, Incalza è quel grande dirigente dei lavori pubblici che sembra essere il vero ministro, che detta le interviste al Corriere allo stesso Lupi, che scrive il programma del nuovo centrodestra, cioè o abbiamo capito tutti male, oppure Lupi cerca di trovare un posto di lavoro al figlio, che è una cosa antica come il mondo, in Italia è pieno di gente raccomandata, con nomi di persone importanti che sono anche nel giornalismo presenti ovunque, raccomandati di ferro, dunque non ci stupiamo di niente. O abbiamo capito male tutto questo e dunque era, che ne so, boh, devi vedere mio figlio per andare a prendere un caffè oppure per farti consigliare qualcosa, oppure Lupi ha mentito, perché quando in un'intervista a Repubblica ha detto io non ho mai aiutato mio figlio a trovare un lavoro, dopo abbiamo sentito che in realtà chiamava Incalza per dire che devi vedere mio figlio e poi magicamente il figlio trova lavoro presso una delle aziende che hanno a che fare col ministero guidato dal padre. A me queste sono le cose che mi fanno incazzare di più, perché diciamo la verità, l'abbiamo già ripetuto nei giorni scorsi, è molto semplice, c'è un giovane laureato in ingegneria, si chiama Luca Lupi, 110 lode in ingegneria, figlio di Lupi. Problemi di lavoro non ne avrà per mille motivi. Primo, perché ha lavorato in ingegneria e in ingegneria gli ingegneri di solito trovano lavoro. Secondo, perché è figlio di un ministro o comunque di una persona molto importante che ha grandi conoscenze. Problemi di lavoro non ne avrà. Perché devi andare a cercare lavoro a tuo figlio con persone che hanno a che fare col ministero, cioè con la cosa pubblica, con gli appalti, eccetera eccetera? O ti vuoi suicidare oppure te ne fotti. Vabbè, comunque Lupi dice non ho mai fatto pressione per assumere mio figlio, non lo dice alla Camera oggi, lo dice in mattinata quando era credo a Milano. Io non ho mai fatto pressioni per chiedere l'assunzione di mio figlio e quindi questo non potrà mai esserci una intercettazione in cui io dico per cortesia devi assumere mio figlio, per due ordini di motivi: primo, perché non l'ho mai ritenuto una cosa corretta; secondo, perché ritengo che mio figlio non avesse la necessità di avere una sponsorizzazione da parte mia. Ha il curriculum che parla. Allora, c'è un fatto molto semplice, è evidente che non c'è un'intercettazione in cui Lupi dice assumi mio figlio altrimenti non ti faccio avere i lavori, non è questo il punto, cioè semplicemente dice a Incalza devi ricevere mio figlio, ricevi mio figlio, e da qui alcuni un lavoro che è stato ottenuto grazie ad alcune amicizie, cioè non ci sa, è chiaro che non c'è l'intercettazione bomba, la pistola fumante, ci sono una serie di indizi che fanno capire, anche molto chiari, che quel lavoro lì, il primo lavoro, 1300 euro al mese, lo ha ottenuto grazie al padre. Ma va bene pure quello, il punto è ci sono aziende, personaggi che ottengono lavori dal ministero guidato da Lupi che assumono il figlio, questo è l'unico punto. Lupi sull'orologio, dai, il Rolex che è stato regalato al figlio in occasione della laurea da uno dei personaggi coinvolti nell'inchiesta e legato a Lupi. Io, se mi fosse stato dato un orologio, non l'avrei accettato, né mai l'ho accettato, perché sono il ministro. No, mi scusi, io ho detto questo e lo ribadisco. Per quanto riguarda, per darle una risposta, non ho bisogno che nessuno mi regali gli abiti. Allora, anche qui nessuno ha mai detto che lui ha ricevuto un orologio. L'orologio è stato ricevuto, secondo quello che viene fuori dalle carte, dal figlio, un Rolex di 10.000 euro da un signore coinvolto nell'inchiesta in galera. Secondo punto. Le scuse, dice, se necessario farò le scuse, ma le scuse non ce ne frega niente delle scuse. Chiedo scusa innanzitutto alla mia famiglia, ai miei amici, alle persone che credono in me e quindi agli italiani, se avessi fatto o se fosse riscontrato che io abbia fatto qualsiasi gesto che sia sbagliato e irresponsabile. La mia azione è lì, quando si dimostrerà esattamente l'opposto ne prenderò immediatamente atto, perché è giusto non solo prenderne atto ma chiedere scusa a tutti. Comunque alla Camera poi ha detto di essere tranquillo, che ha l'appoggio del governo. Insomma, sostanzialmente sembra che Renzi gli abbia chiesto le dimissioni. Lui resiste e ha appoggiato dal suo partito, in particolare dal segretario Alfano. Per il momento non si dimette. Allora io dico una cosa, la questione è molto semplice. Renzi, se ha chiesto le dimissioni di Lupi, è ipocrita. Per vari motivi. Il motivo principale è questo: ci sono 4 sottosegretari nel governo Renzi, 4 sottosegretari indagati per vari motivi, 4 sottosegretari indagati del Partito Democratico, un candidato del Partito Democratico alla regione Campania che è stato condannato in primo grado per abuso d'ufficio, e sappiamo chi è il signor De Luca. A me non me ne frega niente la colpevolezza, non colpevolezza, queste persone secondo me possono anche restare al loro posto, non è questo il punto fondamentale. Il punto fondamentale è un altro, che ci sono due pesi e due misure. Renzi ha chiesto la dimissione di Lupi? Sembra di sì, tutti dicono di sì, anche se poi Lupi smentisce, sentiamo che dice Lupi. Lupi dice: Renzi non mi ha mai chiesto. Vabbè, ma questo è normale. Beh, innanzitutto Renzi non mi ha chiesto nessun gesto spontaneo. Io credo che sia assolutamente doveroso da parte di un ministro rispondere Allora, Renzi gli ha chiesto le dimissioni, questo mi sembra chiaro, viene da tutti quanti, da tutte le notizie che abbiamo. Ed è una cosa di un'ipocrisia spaventosa, perché allora Renzi dovrebbe far dimettere subito. Lupi non è indagato, Lupi non è indagato né condannato. Dovrebbe cancellare dalla candidatura del PD in Campania De Luca, dovrebbe far dimettere seduta stante tutti i sottosegretari indagati. Altrimenti... vero, però che? Ci sono cose che No, è tutto vero quel che dici. Sono cose non che si sente, parla meglio, non si sente, parla meglio. Sono cose che imbarazzano di più il governo e la stampa, e cose che imbarazzano meno, evidentemente. Ma non c'entra niente, no, l'imbarazzo. C'entra il fatto che dei 4 sottosegretari. No, ma dal punto di vista della logica, hai perfettamente. Ma è così, dai, è così. No, ma sto dicendo, dal punto di vista politico, ci sono cose che hanno un impatto maggiore anche nell'opinione pubblica rispetto ai casi in cui sono coinvolti 4 sottosegretari. Ma dal punto di vista della logica, hai ragione tu. Dico solo che la raccomandazione, o comunque la vicenda Lupi, per l'opinione pubblica, sbagliando, è più eclatante rispetto al caso di De Luca, sì, o dei 4 sottosegretari. Detto questo, ripeto, l'ipocrisia. Ma è una cosa, basta guardare nei giornali. Allora, sentiamo però cosa dice Di Pietro, che è incredibile, perché Di Pietro, quando ci sono queste cose, rispunta come i funghi, no? Rispunta come i funghi. Sentiamo. Fra poco in quel partito ci sono più persone che hanno un incarico che diciamo così persone che li votano. Ma io non me la sento di criticare l'NCD in quanto tale, ma proprio quel che hanno scelto. È incredibile, c'è Di Pietro che parla di partiti scomparsi, cioè parla di partiti come il Nuovo Centrodestra, che sicuramente non riscontra le mie simpatie, che hanno meno elettori delle poltrone che occupano, ma è ridicolo, cioè ha distrutto un partito, ha portato un partito ai minimi termini e parla degli altri partiti, cioè è una cosa incredibile. Io ho anche, come dire, mi fa divertire Di Pietro, ma insomma calmi. Vabbè, i 5 Stelle ovviamente all'assalto. Di Battista, sentiamo Di Battista. Questi, per mantenere un posto di lavoro a 14.000 euro, difendono tutto. Cioè, Lupi non si può difendere, è proprio oltre uno che difende un arrestato come Incalza, passato per 7 governi differenti in questo modo, che non si dimette lui. Renzi dovrebbe chiedere a Lupi di fare un passino. Certo, lo chiama e dice sparisci. Ma per il bene di Renzi, perché è una totale caduta di... Ah, la taverna, loro rubano, noi restituiamo. Mi permetta di dirlo anche in questa occasione, loro rubano e noi restituiamo. Siamo arrivati a ben 10 milioni di euro restituiti dai nostri stipendi, dal taglio che ci facciamo ai nostri stipendi. Chi sono loro rubano? I politici attuali. I politici attuali, così, tutti rubano la taverna. Ancora a casa, sì. Oh, sempre a proposito di Lupi, mentre c'è tutta la vicenda della Tunisia, eccetera, eccetera, sentiamo uno di Forza Italia, Bianconi. Bianconi, che è incazzato come una bestia. Quanti sono i figli con 2.000 euro al mese con la laurea in ingegneria? Beh, insomma, la laurea in ingegneria qualche soldo lo porta, eh. Però è vero, cioè, a un certo punto uno appena laureato subito un lavoro da un'azienda che ha interessi col ministero retto dal padre. Questo è il punto fondamentale che dovrebbe spingere un ministro a dimettersi. Ma insieme a lui, Renzi, per coerenza, dovrebbe far dimettere anche gli altri. Cioè, oggi c'è il figliolo 2.000 euro al mese, mi dite quanti sono in Italia la gente che ha il figliolo che glielo impiegano a 2.000 euro al mese con, con una laurea in ingegneria? Chi è che se lo può permettere un vestito da 6-7.000 euro su misura? Cioè, il Rolex da 10.000 euro, la gente queste cose le vede, le sente. E allora se non c'è niente da un punto di vista penale, ma la questione etica si pone. Allora, 800 24 00 24, andiamo a Torino. Francesco, vai. Sì, pronto? Dimmi. Allora, dunque, in sostanza, in buona sostanza, è un po' una provocazione, ma questi fanno bene a fare il cazzo che vogliono, perché tanto Lupi mai si dovesse dimettere, mai avesse quel gesto, per carità, va a finire che magari tra 2 anni lo troviamo a fare in culo in un sottosegretariato, in un sottoscala, a guadagnarsi i suoi 10, 15, 20... 20.000 euro al mese, non voglio esagerare, per carità, e a dire magari a un certo punto che cazzo gli è costato questo sistema del figlio? Niente, ha fatto bene a fare il cazzo che ha fatto. Perché? Cioè, no, mi spieghi, Francesco, ha fatto bene perché secondo te? Cioè, alla fine ha fatto bene a fare i suoi interessi fino in fondo? Adesso, Giuseppe, io non voglio andare a finire, non so, a me dicono vai in sto distributore qua, guarda, passa di là, fai benzina, non ti fa un cazzo nessuno, se ti beccano, di che sei comunque sia passato di là perché hai questa tessera che ti ha dato l'amico del mio amico, che poi non è vero, e poi alla fine non ti fanno un cazzo a nessuno. Adesso io l'ho estremizzata, non è che io vado a fare la spesa gratis perché se mi beccano non mi fanno niente o a rubare, però questi qua sono legittimati a fare quello però che vogliono. Però scusa, ti posso far osservare? Storia, sì, perché tanto tu dici che rispuntano fuori comunque. Ma sì, la storia gli dà ragione, il sistema è questo, anche la tua radio, Giuseppe, se non ci fosse questo, forse come in Germania, che non, cioè se un politico fuma a cazzo in aula l'arrestano tra un po', per carità, anche questa è un'estremizzazione, se fosse come in Germania, tu che cazzo ci racconti tutti i giorni? Sì, poi vai su l'altro argomento, poi vabbè, adesso questo non c'entra niente, non c'entra niente, no, questo non c'entra nulla, hai capito, ma il mio è un po' diciamo una critica in generale. Questi fanno bene a rubare, non gli fa un cazzo di niente nessuno. Vabbè. E quando gli fanno innanzitutto, qualcosa, innanzitutto, gli fanno una pippa. No, ho capito, innanzitutto Lupi non è accusato di nessun furto, non è indagato, qualcuno può pensare è stato, come dire, ha tenuto questo ministero perché è un ministero molto importante per tutti gli affari che riguardano l'Expo e dunque anche in parte Comunione e Liberazione, aziende legate a quel mondo lì, eccetera eccetera. Ma secondo me, al di là di quello che deciderà la magistratura, la cosa più incredibile è questo aspetto del figlio. Cioè, una persona anche certo, scaltra come Lupi non può non accorgersi che il figlio può lavorare ovunque e ha le possibilità di lavorare ovunque, tranne che in aziende che hanno qualsiasi tipo di collegamento con il Ministero dei Lavori Pubblici. Questa è una cosa basilare. Se tu fai lavorare anche solo per una settimana tuo figlio con persone che poi tu ogni giorno no, con cui hai rapporti ogni giorno perché sei il ministro, questa cosa qui la paghi, capito? Questa cosa qui la paghi. Grazie, Vincenzo, provincia di Teramo, vai. No, però quello che diceva, hai fatto sentire prima Bianconi. Ora, ha detto delle cose condivisibilissime, ma perché lo scopre oggi Bianconi? Perché sta all'opposizione di questo governo. in politica tutto no, è cosa legittimo. Scopre? Ha parlato della laurea del figlio di Lupi, adesso si è scoperto il figlio di Lupi. Dai. Tesoro, no, la critica che lui giustamente ha fatto la faceva la vicenda del figlio di Lupi, no? E allora è una critica. Ma no, dico benissimo, ma quando sono scoppiati altri casi in altre stagioni politiche, lui faceva le stesse critiche quando si scoprivano casi, non dico analoghi, perché sì, non no, ho capito, volta. Nel PDL, eccetera, eccetera. Va bene, Vincenzo, no, provincia di Teramo. Davide, non si sente tanto. Vincenzo, provincia di Teramo, dai. Volevo parlare io invece del Dolce Gabbana. Sì. Io sono un padre di un bambino cosiddetto chimico, un bimbo, ho adesso 18 anni, poi sì, ecco, sì. Approfitto per ringraziare pubblicamente il professor Antinori. Volevo dire, a noi sono stati detti di tutti i colori, nel senso che siamo egoisti, che siamo genitori. Ma lei non si deve affatto vergognare di aver fatto un figlio in vitro? Cioè, i suoi figli non sono... Come è nato suo figlio, no, scusi? No, voglio sì. Come sono in vitro, secondo me sono in vitro e poi ti impianti. Perché io. Ma il suo figlio non è affatto sintetico, suo figlio è un figlio normalissimo, nato grazie alla scienza, e dunque non si deve vergognare di nulla. Se la prenda con Adinolfi. Non mi vergogno nel modo più assoluto. Io e sono allora? Orgogliosissimo di quello che fa. Voglio dire, però, quando queste cose vengono dette a noi che abbiamo fatto questa cosa, non si è alzato tutto questo polverone. Quando, come quello che si è alzato figlio di un gay c'è casino lo stesso, quelli che sono contrari comunque sia al fatto che lo facciano i gay sia al fatto che lo facciano gli altri. Grazie, non volevo battezzarlo. Grazie, ma come non voleva battezzarlo? Che c'è? Vabbè, questa è una sua scelta. Perché la chiesa è contro, non vogliono questi bambini. Vabbè, ma lei ha tutto il diritto di non battezzarlo, anzi ci sono pure delle associazioni che adesso sbattezzare i figli, si possono sbattezzare i figli. L'ho fatto. Va bene, grazie. Mauro Roma. Buonasera, dottor Cruciani. Dimmi, sono Mauro. Un controllore pubblico. E volevo. Che vuol dire un controllore pubblico? Controllore pubblico, sono un ispettore che controlla gli appalti e controlla i fondi comunitari. Sì. E ma dove lavora lei? Preferirei non dirlo, se me lo consente, ma vorrei semplicemente dire che per quanto riguarda l'inchiesta sistema. C'è un elemento comune a quello che è accaduto a Milano con Expo, cioè? A Venezia con il MOSE e a Roma con Mafia Capitale. I controlli non hanno funzionato. Ma che tipo? Ma di cosa sta parlando lei? Dell'aumento degli appalti? Io sto parlando di tutta la vicenda dell'inchiesta sistema che ha portato a sterilizzare l'efficacia del controllo in maniera. Sì, però sia più specifico, perché sennò la gente non capisce. I controlli non hanno funzionato. Che vuol dire? I controlli non hanno funzionato vuol dire che quando controllore e controllato hanno interessi convergenti, sì. Il controllore non fermerà più i comportamenti, diciamo così, illegittimi. Ho capito. Vabbè, ma questa è una vecchia storia però. Infatti, quando i controlli poi funzionano, per esempio potete chiederlo all'interno. Il problema è che quando ci sono in mezzo i soldi del pubblico, la gente, gli amministratori infedeli, gli amministratori che vogliono intascare qualcosa o che hanno interessi a favorire certe aziende perché poi verranno dei vantaggi, se ne fottono del fatto che poi siamo noi a pagare, ha capito qual è il punto? Cioè il punto fondamentale è solo questo, se ne fottono quando c'è di fronte il denaro pubblico, sprecano, fanno aumentare i costi degli appalti e se ne sbattono i coglioni. Comincia a 19 e finisce, fai 3-4 minuti a 25, 26 e finisce l'altra volta, ricomincia a 36, poi all'8-5 un'altra volta, alle 8 riprendi, alle 8:10 alta pubblicità, alle 8:20 il traffico. Mamma mia! Allora, si è sempre detto non si può rinunciare ai vitalizi, no? Non è possibile privarsene, al di là del fatto che sia giusto o meno riceverlo, quanto vitalizio si può ricevere, i vitalizi sono sbagliati in sé, eccetera, eccetera. Adesso c'è il caso di un tizio, ex Italia dei Valori, consigliere regionale in Veneto, che si chiama Marotta, il quale ha deciso di rinunciare al vitalizio. Cioè ha fatto semplicemente una letterina, anzi lo spiega, basta una letterina e si può rinunciare al vitalizio, cioè che è in sostanza quello che ti danno dopo aver versato soldi non tuoi, che hai deciso da solo, hai deciso insieme agli altri, soldi nostri, che ti arrivano quando a 60 anni, in alcuni casi anche prima, vai via da un'istituzione, da un Parlamento, dal Parlamento regionale, eccetera, eccetera. Marotta ha rinunciato. È fattibilissima. È una letterina di 4 righe. La riusciamo a vedere da là? Dichiaro di rinunciare irrevocabilmente all'assegno vitalizio e alla reversibilità. Firmato, protocollato, consegnato. Io sono gliela già iniziano senza a versare, pensione. È già senza pensione. Assolutamente. Lo ha deciso con la moglie. Io ho deciso di rinunciare al vitalizio perché credo è stata anche una decisione veloce, l'abbiamo fatta a tavola io e mia moglie insieme, perché quanto c'è anche il diritto di reversibilità, quindi le donne che di solito sopravvivono agli uomini si possono portare avanti anche la pensione dei consiglieri regionali. Poi spiega molto bene, ho versato 80 e mi ritorna indietro 600, questo ci fa capire la profonda ingiustizia di questi vitalizi, cioè hanno versato delle cifre e tornano indietro cifre molto molto più alte e soprattutto hanno versato soldi nostri. Ho fatto un calcolo, a fronte di 80.000 euro di contributi versati, io avrei comunque preso almeno 600.000 euro. È uno stato incredibile, cioè una cosa che non sta né in cielo né in terra. Un economista qualsiasi mi direbbe che non può stare in piedi un conto del genere. Se io do 1 e ricevo 7, c'è qualcosa che non funziona. Hai capito, Capanna? Hai capito, sì? La senti questa voce, Capanna? Adesso chiamiamo Capanna e facciamogli sentire quello che dice Marotta, eh? Adesso gli faccio sentire tutto, no, l'audio, ma è di Marotta. Che si può rinunciare, questo no, è ma non detto, solo si può rinunciare, ma è una cosa profondamente ingiusta, perché versano cifre di un certo tipo e ne incassano. È vero, ma non puoi obbligare, è giusto il paragone 30. Ma chi sta obbligando nessuno? Chi obbliga? No, chi obbliga? È evidente che chi lo. No. Sì, ma non ci venisse a raccontare la favoletta. La favoletta che è una cosa, un diritto. Un diritto. No, io non ho detto che tutti dovrebbero farlo. Ho detto allora, semplicemente. No, ho detto semplicemente non ci venisse a raccontare la favoletta dei diritti acquisiti, la favoletta che è un diritto, abbiamo versato i soldi e dunque abbiamo diritto. Ah, avete versato dei soldi, ve li siete decisi da soli? E incassate molto di più rispetto ai normali cittadini. Segreteria telefonica 02 46 52 40 10 02 46 52 40 10. Padania di merda, Padania di merda, viva le due Sicilie, distruggiamo la Padania. Carissimo Fiore, c'hai ragione, bisogna seguire la logica. Secondo la logica, Beresti sta in galera secondo le leggi italiane. A logico! Bonanno ha ragione. I rom sono la feccia della società. Andassero a rubare dalle fecce come loro. Andassero tutti a rubare a casa di quel ricchionazzo di Parenzo. Pronto, Brucia? Volevo prendere il posto del Rocco Siffredi. C'è un bel attrezzo da 19 centimetri. Avrei pure la trama per un bel film. Per il ruolo di Rocco Siffredi, io ho moglie, 3 amanti e in più vado pure prostitute. Non mi basta mai. E voglio dire che Parenzo si è diplomato economia e commercio, perché fa economia davanti e commercio di dietro, hai capito? Questa non era male, però io non capisco perché. È molta... una divertente umanità bestiale. No, non capisco perché questa bestiale umanità. È bestiale, sì, è vero, bestiale. Però, come dire, ben accolta qui alla Zanzara. Se questa divertente umanità. Ma dipende da cosa dicono. No, ma non mi interessa a me cosa dicono. Spesso sono delle battute formidabili con un copione, magari scritto da qualcuno. Non capisco perché sono convinti tutti che tu sia omosessuale. È una cosa incredibile questa roba qua. Vabbè, ma a me questo me ne frega. No, ma non capisco perché lo prendono come. A me da molto. Sì, come un insulto, ma non è un problema, ma no, chi se ne frega che piace alle donne, non ne frega niente a nessuno, ma voglio dire la cosa, ma io di questo dico, ma arrabbio, io mi arrabbio quando sento le vabbè cose, dai, non si sente, vai, andiamo a Davide, non si sente, dai, Nicola Latina, che cazzo ne sai come si sente, Nicola Latina, vai. Buonasera, volevo dire questa cosa qua. Io non so se essere arrabbiato o rassegnato in virtù di quello che esce fuori dagli scandali tipo Mose, adesso il ministro e quant'altro. Arrabbiato perché, voglio dire, la storia a noi non segna nulla, no? 20 anni fa si chiamava Mani Pulite, adesso si chiama Mose, si chiama Roma Capitale e quant'altro. Vabbè. E rassegnato perché se noi italiani dobbiamo essere così... per essere fregati o comunque fregare, a quel punto non so più che dire. Non ho capito bene il ragionamento. Se gli italiani dobbiamo essere così, fregare oppure essere fregati, non si capisce niente. Si spieghi meglio, se no non capiamo una mazza. Sì, allora, gli ho detto, non so se essere arrabbiato. Perché arrabbiato? Vabbè, perché la se lei non, però, scusi un attimo, se lei non sa se essere arrabbiato o no, sarà un problema suo. Cioè, non ci può venire a raccontare, non so se sono arrabbiato. O uno è arrabbiato o non è arrabbiato. Ho capito, beh, è una provocazione. Nel senso, ma non di mi pare nemmeno una provocazione. Vabbè, ma comunque, voglio dire, dopo 20 anni, dopo Mani Pulite, uno può essere un attimino arrabbiato. No, allora, lei è arrabbiato, si decida, è arrabbiato. Ah, sono arrabbiato. Oh, certo, bene, almeno abbiamo deciso questo. Poi? Assolutamente sì. E che cosa devo fare? Devo rassegnarmi a questo punto? Ah, non lo so, anche me lo chiede a me se si deve rassegnare o no. Bella domanda, dice. No, domanda. Ma rassegnare a che cosa? Che cosa era fatta? Rassegnare al fatto che a noi la storia non insegna nulla. Voglio dire, se dopo 20 anni stiamo ancora a discutere su un qualcosa che prima si chiamava Mani Pulite, adesso si chiama, ripeto, Mose, le ultime cose che sono venute fuori, allora... che cosa dobbiamo fare noi? Ma dobbiamo perché lo chiede a me? Insiste, se lei non domanda. Si vuole rassegnare, no. Ma che è una macchina lei? Se non si vuole rassegnare, che dobbiamo fare? Se non si vuole rassegnare, l'unica arma che c'è di solito sono le elezioni, no? In questo paese, bella roba, lo so, ho capito, non è che vorrebbe fare? Prendere il forcone, prendere la pistola, che vorrebbe fare? No, è quello il guaio che mi fa arrabbiare. È giusto quello che dice. L'unica arma democratica da persone civile, da popolo civile, sarebbe quella delle elezioni. Se poi non le piace nessuno, non vota. Ma punto. Sono d'accordo, Cruciani, però deve anche essere d'accordo. Ma poi con non è che non ho capisco che cos'è che l'ha fatta arrabbiare nelle ultime ore. La vicenda Lupi, la vicenda Lupi del figlio. Il figlio. Lupi, no, lei ha un figlio? Lei ha figli? Sì, ho un figlio piccolo. Ah, piccolo, cioè non è in età di raccomandazione. Non è in età di raccomandazione. Quello mi viene a dire che c'ha il figlio, per carità, che ha preso 110 lotte, per carità, ma ce ne saranno chissà quanti che hanno preso 110. Ma in questo non c'è dubbio, non c'è. Tanti no, perché in ingegneria tanti no. Però certamente la cosa assurda. Ma più di uno ci sarà, voglio dire, no? Senza metterci a... No, ma ripeto, la cosa assurda di questa vicenda Lupi non è tanto il poi non lo so, la magistratura deciderà sulle inchieste eccetera, certo. È il fatto che il figlio lavori in aziende che hanno a che fare col Ministero dei Lavori Pubblici. Daniel da Bergamo, vai Daniel. Ciao Cruciani, volevo dirti una cosa. Dimmi. Mi hai fatto girare i coglioni quando hai detto quando hai parlato male della taverna. Nel senso che io non ho parlato male, ho detto che a un certo punto tutti i politici ladri, è una risposta generica, ridicola. Cioè, può fare di meglio la taverna rispetto a questo, può fare molto meglio. No, per quando ho detto che restituiscono parte del loro stipendio. Ma no, non ho detto per questo. No, non ho, 5 stelle no per, non ho detto per piacere alla gente. No, ma non ho detto questo, anzi, questa qua è una cosa positiva. Secondo me sbagliano a non impiegarlo in attività politica, ma a metterlo in questo fondo comune per le microimprese. Non c'entra nulla. Però quella è una. Comunque è utile. Ma quella è una loro decisione, va benissimo, non la contesto assolutamente. Non la contesto assolutamente. Invece a me è sembrato che tu contestassi questa cosa. No, non la contesto questa qua. Questa qua non l'ho mai contestata. Contesto il fatto che così l'attacco generico che ha fatto prima tutti i politici ladri, eccetera, eccetera. Rudy, Bari. Non saranno tutti ladri, ma sicuramente i 5 Stelle sono gli unici onesti. Va bene, Rudy, Bari. Oh, pronto, io mi riferivo al fatto del caro Cappana che nel 1968, quando è venuto al settimo istituto a dire è preso una manciata di monetine e l'ha buttato in vabbè adesso partire. Ragazzi, cosa c'entra adesso questo, Rudy, dai, forza. Quello che hai parlato di prima, che si prende uno, si paga uno e si prende otto, uno. Secondo cosa, l'altra volta che ho parlato, come che ho sentito in trasmissione quello di Mani Pulite, il giudice, il Gerardo Colombo che ha detto che bisogna insegnare dalla scuola, fare capire la gente poi? In un certo modo di comportarsi, non serve niente, ci vorranno neanche 200 generazioni, il popolo è marcio, fine, questa è la il sua popolo scena. È marcio, non se ne viene fuori, è marcio, allora non sarai marcio anche fuori. Tu se il popolo è marcio tutti sarai tutti quanti anche tu sei marcio, allora anche tu sei marcio, io di meno perché io mi sono i soldi che guadagno e faccio il mio dovere ogni santo giorno, questo è quanto. Peccato, siete di una ignoranza sesquipedale. Certo, perché non ho studiato un cavolo e pretendete di fare i conduttori, vedi? Caro Capanna, volendo al vitalizio si può rinunciare, si può rinunciare. Antonio da Siracusa, vai. Intanto, sai Parenzo qual è l'ambizione massima di Nicky Vendola dopo aver finito, a parte sposarsi, adottare un bambino come ha dichiarato in varie interviste, e dopo aver finito di fare il governatore della Puglia? Lo sai qual è o no? Oltre a questo no. Oltre a questo no. Bene, se alzassi un po' la voce sarebbe meglio. Sarebbe ho gradito. Visto l'intervista che ha fatto a chi? Ho visto le foto, ho visto queste ultime cose che allora no dice, non hai letto un cazzo. Scrivere un libro di filastrocche per bambini, cioè per bambini, l'ambizione di Vendola è quello di scrivere un libro di filastrocche per bambini. Ma non mi pare così. No, io perché non posso dire una notizia, ho letto semplicemente la cosa. Una notizia adesso che uno voglia scrivere un libro di filastrocche, questo l'ha detto lui. Secondo me lo sottolinei con malizia semplicemente perché è omosessuale. Non si sente Antonio da Siracusa. Sottolinei con malizia perché siccome è omosessuale allora nella tua visione forse non no, può no, dire io sono la persona più aperta del mondo. Antonio da Siracusa, ho detto che l'ambizione massima è questa: scrivere un libro di filastrocca per bambini, quello che vuole fare subito dopo aver finito di fare il governatore della Puglia è di scrivere un libro di filastrocca per bambini. Ma lo posso dire o non lo posso dire? Oppure ci deve vedere malizia in questo? Figuriamoci, pare, se ho problemi. Ma non mi pare clamoroso, forse non ti clamoroso pare clamoroso, decidi tu quello che è clamoroso o no. Antonio da Siracusa, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi, caro. Io volevo dirti semplicemente una cosa, partendo semplicemente da un assunto che è se Lupi si deve dimettere tutto il governo, perché su questo non ci sono dubbi. Ma chi l'ha detto, scusa? Ma chi lo sostiene? Io non capisco perché se Lupi si dimette queste cose assurde dell'Italia, cade l'impalcatura, no, cadono cade gli accordi. Ma chi no, l'ha detto? Ma no, chi lo sostiene? Ma non è per questo che l'ha detto, è semplicemente per una questione di, come dire, di regole. Cioè, siccome ci sono dentro questo governo più malfattori di Lupi, perché si dovrebbe rimettere adesso solo più Lupi? Malfattori di Lupi, certo, primo Lupi non è accertato che sia un malfattore. Siccome tendenzialmente tu hai già decretato che Lupi è un malfattore? No, assolutamente no, dico, ma se nel sentire comune c'è questa situazione che Lupi si deve dimettere perché l'orologio, il vestito, le mutande, le scarpe, le calze, che se si deve dimettere Lupi per questo che non è ancora accertato, si devono dimettere tanti componenti di questo governo che hanno già probabilmente una storia giudiziaria che è un pochettino più avanzata. Ma veramente ci sono quattro, ma quello l'abbiamo detto prima, ma non è che certo. Nessuno è malfattore fino a prova provata. No, certo, e anche se è provata poi si può discutere, perché non è che tutte certo. Le sentenze della magistratura sono la Bibbia, a parte che si può certo, discutere pure sulla Bibbia. Va bene, vai. Filippo da Ferrara, vai. Filippo Ferrara, vai. Buonasera a tutti. Volevo semplicemente fare un'esternazione sulla un'esternazione sulla esternazione politica. Le fanno i politici, ma non, a noi non interessano. Vabbè. Vai, dimmi. Allora, premesso che sono d'accordo con Cacciari che ieri sera diceva che comunque qualsiasi persona, comunque anche che gestisce la cosa pubblica investito da un'inchiesta giudiziaria non è tenuto obbligato a dimettersi, in quanto comunque altrimenti la magistratura farebbe politica, eccetera. Quindi prescindendo da questo, al di là di Lupi o qualsiasi altra persona, una persona che gestisce la cosa pubblica, che si dimostra incompetente oppure che viene pizzicato a farsi gli affari suoi, è giusto e sacrosanto che si dimetta. Poi ma in Italia questo... Sì, ma ho capito, ma ripeto, per me si dovrebbe dimettere soprattutto per la questione del figlio. Le altre questioni riguardano vicende giudiziarie e Lupi non è nemmeno indagato. Adesso pare che spuntino fuori anche dei biglietti aerei, dei regali di Natale per lui e per la moglie, forniti sembra da persone legate agli appalti. Vedremo di cosa si tratta, ma ripeto, la questione principale mi sembra in questo momento, per quello che riguarda la politica e le dimissioni, la questione del figlio, perché agli italiani sta sulle palle il fatto che uno aiuti il figlio da una posizione di ministro, punto e basta. Dopodiché, qualora dovesse saltare fuori anche di regali diretti a lui, e questo non sappiamo, la cosa diventerebbe ancora più grave, perché come sai lui da ministro ha fatto un regolamento proprio sui regali che sia lui. Vabbè, ecco la banalità delle 19:40. È evidente che se ha ricevuto regali, se ha ricevuto dei regali è grave. No, ma non, a parte che tutti ricevono, spesso ricevono dei regali i politici, quindi questo è un altro aspetto. Loro hanno fatto addirittura un regolamento, come saprai, cui il regolamento fatto da lui dice si possono accettare regali fino al valore di 150 euro. Questo è. Quindi questo è un altro aspetto, perché lavorando lui in un ministero particolare che è quello delle infrastrutture, dove girano tanti soldini e tanti vogliono far favori più che in altri ministeri, aveva fatto addirittura un decalogo apposta, quindi non è, è un dettaglio non da poco questo. Bene, bene. Se vuoi sapere. Oh, ma abbiamo con noi un esponente del nuovo centrodestra. Al centro della bufera, non lui ma il partito, perché Lupi è uno dei dirigenti principali, è un ministro, eccetera, eccetera. Carlo Giovanardi, buonasera, buonasera. Sì, buonasera. Eccoci qui. Allora, immagino che per lei, già l'ha detto più volte, Lupi non si debba dimettere, no? Conferma? Giovanardi? Sì. Cioè, conferma, secondo lei non si deve dimettere Lupi? Per la verità, io devo ancora capire da ieri sera, aspetto un attimo che tutto questo polverone... sia caduto per terra per capire esattamente, perché mentre a Venezia ho capito benissimo che Nordio è stato bravissimo, ha arrestato, processato, condannato in pochissimi mesi i corrotti e li ha tolti dalla vita politica, fra le altre cose sottolineo con le attuali norme anticorruzione, no però scusi adesso non andiamo lasciamo perdere, devo ancora capire esattamente quali siano gli addebiti. No, ma infatti non è indagato Lupi. Appunto. Non è indagato, non è questo il punto. Il punto è un altro, scusi un attimo però cerchiamo di capirci. Lupi afferma a Repubblica di non avere mai aiutato il figlio, mai. Di non avere mai, un'intervista a Repubblica: non ho mai aiutato un figlio, mio figlio, a trovare lavoro. Il giorno dopo escono delle intercettazioni, cioè o le abbiamo capite male oppure sono inserite in un contesto diverso, in cui chiaramente Lupi chiama questo Incalza, che è il grande RAS del Ministero dei Lavori Pubblici, e gli dice devi sentire mio figlio. Magicamente il figlio di Lupi ricevi mio figlio, certo non è che lo riceve per prendere un caffè, cioè si tratta di un 25enne e di un signore di una certa età, lo riceve per motivi, e subito dopo Incalza chiama altre persone con cui ha rapporti di lavoro Lupi e il ministero, che gli procurano un lavoro, il primo lavoro dopo la laurea. Questo è successo, questi sono i fatti, non mi sembra che questi fatti siano negati dallo stesso Lupi, perché no, dice Lupi invece oggi proprio li ha negati, dicendo ha detto che non ha mai raccomandato il figlio, che è diversa. Infatti, la cosa, io oggi ho detto provatemi, ditemi dove c'è un'intercettazione, una prova, un elemento in cui vabbè, ma allora però Giovanardi non siamo tutti stupidi, cioè è evidente che il figlio trova lavoro con persone legate al padre, trova lavoro proprio perché non siamo troppo stupidi. Noi stiamo adesso parlando, stiamo in questo momento parlando intanto non di Lupi ma del figlio. Sì, vabbè, ma è grave lo stesso. Non, ma sono legati, l'ho detto fin da ieri. Anche Renzi è legato al padre, che lo aveva fatto dirigente della sua società prima di essere diventare presidente della provincia. Ma che c'entra il figlio con il padre? Anche il padre è indagato. Anzi, padre di Renzi, il padre è indagato mica per cose che riguardano Renzi, però. Ma scusa, riguardano l'azienda in cui lavorava Renzi. Vabbè, ho capito, ma è diverso, cioè non riguardano ma l'attività. Ma è diverso, perché le colpe dei figli non ricadono sui padri e quelle dei padri non ricadono sui figli. Sì, ma dipende, no, scusi Giovanardi, però la questione qui non è penale, io me ne frego della questione penale, della questione giudiziaria. Molte volte sono d'accordo con lei sulla questione giudiziaria, le cose partono in un certo modo, si fanno i processi sui giornali e poi si va a scoprire 10 anni dopo, 7 anni dopo, che magari quelle persone erano innocenti. Ma perché nessuno parla invece del ruolo che per 20 anni o 30 anni ha avuto l'ingegnere Ercole Incalza, che non è una questione secondo me di giudiziaria ma politica, perché ministri da 30 anni garantisce l'equilibrio degli appalti, compreso quelli del PC, del 33% famoso della Lega delle Cooperative. Cioè, non ho capito, secondo lei garantisce anche la Lega delle Cooperative diciamo la sinistra Incalza? Beh, ma scusi, quando io ho avuto tutta la discussione con Prodi che doveva correlarmi, non mi ha mai correlato, perché ho ricordato che a me Castagnetti disse non parte la variante di Valico. Quando parlo di variante di Valico parlo di questa variante di Valico, quella di quella che si sta parlando in questi giorni. Finché il Presidente della Regione Emilia Romagna non avrà garantito il 33% degli appalti per la Lega delle Cooperative, cosa che ha scritto Panorama, che allora Parlamento. E chi c'era? Cioè era sempre in calza, dirigere il traffico garantendo, cioè svolgendo un ruolo fondamentale. Vabbè, d'accordo. Scusi, Incalza non è mica un cretino, Incalza è il più grande professionista europeo italiano. Vabbè, adesso è in galera ed è accusato di cose gravi, però il punto è un altro. Ma queste sono forse le cose gravi. Se vogliamo invece parlare dell'orologio e del vestito. No, ma non è questione dell'orologio e vestito. No, però scusi, Giovanardi, non è questione di orologio e vestito. Agli italiani sta tremendamente sulle palle. Poi lo fanno tutti in realtà, lo dicono, ma lo fanno tutti. C'è quello di raccomandare i figli. No, lasci dire a me esattamente. Lei ha figli, Giovanardi, sì. Tutti i 50 milioni e 45 di padri sono meno. Tutti i padri italiani farebbero la stessa cosa per il figlio. Cioè raccomanderebbero il figlio? Raccomanderebbero il figlio? Sì, non c'è italiano che per il figlio non si farebbe in quattro per trovare un lavoro. Cioè farebbe anche cose illegali. Farebbe anche cose illegali, dice lei. Farebbe anche cose illecite pur di favorire il figlio. Se sapesse quante persone vengono a chiedere per sistemare il figlio per i concorsi cose illecite, sono una fila infinita. Bisogna dirgli di no. Allora, ma il punto è un altro. Lei dice che tutti i padri italiani raccomanderebbero il figlio. Secondo me non è vero. Ci sono un sacco di farebbero di tutto per trovare raccomanderebbero un posto. Dunque raccomanderebbero. Anche raccomanderebbero se hanno dei conoscenti, se hanno dei parenti, raccomanderebbero il figlio. Se hanno delle occasioni di trovare lavoro, però se hanno dei parenti che hanno un'impresa. Giovanni, lei sta dipingendo l'Italia come un posto che è vero in parte, no, come un posto tutti raccomandati. Poi tutti l'ipocrisia italiana è negare l'evidenza, perché ritengo un paese di ipocriti che vogliono negare sempre l'evidenza a casa degli altri. Ma lei dimentica, per cui siamo sempre un paese in cui tutti pagano. Ma questo è vero, questo è vero. Onesti, lei ha raccomandato i suoi figli? No. E sa come si chiama, fra le altre cose, questa cosa in Veneto? Come si chiama? C'è un famoso detto veneto che dice: dove non gesè formaggio da mangiare, sei tutti onesti. Dove non c'è formaggio da mangiare, sono tutti onesti. No, però scusi, allora lei è un'eccezione. Siccome ha detto tutti i padri, lei è un'eccezione. Ma io ho una mia vita privata, ho tre figli, uno va a Modena, si informa dappertutto, perché è anche scorretto parlare dei figli quando sono maggiore. Lei non ha mai fatto una telefonata per suo figlio? Si informa quello che fanno, si informa che tipo di situazione hanno nel lavoro anche precaria. No, lei ha mai fatto una telefonata a suo figlio o no? Per suo figlio? Sì, ogni tanto telefono a mio figlio, anche a mia figlia. No, anche ma per raccomandare, siccome ha detto che tutti i padri italiani fanno così in pratica. Tutti i padri italiani si preoccupano della che ha detto, poi lavorativa dei loro figli. Il che non vuol dire che preoccupandosi che studino. La questione però è un'altra. Si preoccupano anche del fatto di agevolarli. Però scusi, non li ho mai agevolati in nulla. La questione è un'altra. Lupi, telefonate a Modena, chiamate a Modena chi volete nella città, chiedetevi cosa fanno i miei figli e vedrete che tutti vi risponderanno che lungi dall'averli agevolati, anzi vi dirò di più. Ci sono anche situazioni nelle quali oggi sono stati sfavoriti. I suoi figli sono stati sfavoriti rispetto. Da una di quei decina d'anni, purtroppo, succede anche proprio per la demagogia che c'è. Che i suoi figli hanno problemi di lavoro perché si chiamano. Sì, che possono. Lei lo sa che oggi mio suocero, posso parlare di mio suocero? Hanno 95 anni. Sì, parliamo pure del suo suocero. Dunque, ha dovuto rinnovare dei bot che gli scadevano, che sono contestati a mia moglie e a sua sorella. Ci sono voluti 10 giorni perché io sono insegnato come parlamentare nelle categorie a rischio e il direttore di banca ha detto fermo, no scusi signor 95 adesso. Anni, guardi che la moglie e sua figlia ma i suoi figli sono è sposata con un parlamentare, quindi non le posso rinnovare i bot. Ci hanno messo 10 giorni a fare le indagini. Cioè, ma scusi un attimo, i suoi figli sono sfavoriti dal fatto che si chiamano Giovanardi? I figli dei parlamentari oggi molte volte invece sono di discriminati, avere sono storicamente delle realtà positive, trovano diffidenza. Trovano diffidenza e difficoltà. Che voi avete segnalato. No, capito, un attimo solo. Che state segnalando di questa. No, un attimo solo, 30 secondi. Ho parlato Lupi, perché? Adesso 30 secondi e torniamo a Giovanardi, perché la questione di Lupi è molto semplice. Lui raccomanda il figlio a persone che lavorano con lui, ma non lavorano con lui in un'azienda privata, al Ministero dei Lavori Pubblici. Cioè questo signore, questo ragazzo, sarà simpaticissimo, bravissimo, bravissimo ingegnere, si fa raccomandare dal padre per entrare non in un'azienda privata che chi se ne frega, ma in un'azienda legata ai lavori del Ministero. Questo è il punto. Come si fa a dire no, è tutto normale? Questo che voglio sentire da lei. Allora, è con noi uno degli esponenti del nuovo centrodestra, casino immenso sul ministro Lupi. Allora, Lorenzo... riassumiamo. No, scusa, aspetti, fermo. No, fermo. Te. Ma io, un attimo. Il ciclismo è una truffa per i gonzi. Allora, veniamo al sodo. C'è agli atti che Lupi ha chiamato il suo collaboratore in casa e gli ha detto ricevi mio figlio. E questo è un fatto. Punto. Poi... Che vuol dire? Poi ottiene questo incalza, chiama un altro. Telefonata, poi c'è il fatto che in casa parla con questi Perotti, se voi dimostrate, o qualcuno riesce a dimostrare, sì, che Lupi, diversamente da quello che ha detto, ha parlato con i Perotti, o ha sollecitato l'assunzione del figlio, o si è dato da fare per ottenerla, avete ragione voi. Ma non ho capito, ma non se siamo riusciti a dimostrarlo. Ma come non riusciamo a dimostrarlo? Nei fatti inizia a lavorare. Avete ragione voi. Inizia a lavorare in alcune aziende collegate, di persone collegate, sì, che ottengono. Allora, voi quando sei lui, è una cosa pazzesca, dai, Giovanni. No, che Lupi ha fatto qualcosa per parlare con Perotti o per farlo assumere, avete ragione ma voi. Ma ho capito, ma non c'è, non c'è, invece, no, ma non c'è, c'è la prova dimostrazione di questo. C'ha ragione Lupi, verrà in Parlamento e se qualcuno sarà in grado di dimostrare che il ministro Lupi ha parlato con i Perotti o ha sollecitato, ma non c'è bisogno, ci ha parlato in calza, ci ha parlato in calza. Vabbè, facciamo parlare Parenzo, dai Parenzo, dimmi se c'è, si sente c'è un dettaglio, cioè, no, mi fate incazzare veramente, ma io no, incredibile, ma c'è un dettaglio in più che anche Giovanardi in modo furbo e maramaldesco ha dimenticato. Nelle intercettazioni telefoniche i protagonisti della vicenda a un certo punto, capendo che stanno facendo una cosa un po' sì, esatto, lo mandano in America, lo mandano in America. No, ma non solo, ma non dicono neanche il nome, dicono bisogna far lavorare in quell'azienda il figlio di, perché capiscono che... Beh, Giovanardi, su, questa è la realtà. No, ma scusami, perché non voglio passare per coglione, io non voglio passare per coglione. Aspetta, che dici Parenzo, che dici? Scusi, ma l'Italia che di oggi, che l'Italia in cui il terrore corre sul fino. Sul filo. Ah, per questo. Dove vengono contestate le cose più incredibili. Cioè, fanno bene a parlare così, dici. Fanno bene, chiunque fa benissimo a cercare di fare le cose lecite, quelle lecite. Ma non c'è niente di lecito in questo. Lecite, avete ragione voi. Nel momento in cui voi o chiunque riesca a dimostrare che il ministro Lupi ma è nei fatti, ha lavorato con persone legate a lavori. Il fatto che abbia lavorato con non vuol dire assolutamente. Ma che come no? Ma si brigavano le persone che ottenevano lavori dal ministero. Scusi, brigavano. A me sembra di sognare. Allora, ma io non capisco. Quando si è iscritto in ingegneria, no, il giovane Lupi, il papà faceva il ministro delle infrastrutture, no, ma che c'entra? Dopodiché il giovane Lupi si laurea dopo 5 anni di studio 6. In ingegneria civile. Vabbè, quindi allora secondo voi il giovane Lupi, essendo il padre ministro delle infrastrutture, non potrebbe fare l'ingegneria civile da nessuna come parte? Come no? Non in aziende che ottengono lavori dal ministero dei lavori pubblici. Mi dove scusi, lavora il padre? Perché è proibito se è il padre no, non è una lo sollecita. È una questione di... è una questione di... E poiché si dà il caso che in Italia, come è noto, il 90% delle aziende cooperative o no, ma direttamente o indirettamente. Non è vero, non è vero. No? Andate a vedere le aziende che in qualche modo direttamente e indirettamente non hanno sovvenzioni o non fanno appalti. Comunque nessuno, o non hanno contatti guardi, diretti con il Ministero del padre chiama in calza allora chiama. Voi, il padre è perfetto. E lui dice oggi: sì, io ho detto in calza, ricevilo. Poi questo processo è l'intenzione che fate voi. Ah, dopo se invece riuscite a dimostrare, se riuscite a dimostrare avete ragione. Ma dimostrare se che c'è da dimostrare? Quello inizia a lavorare. Quelli come ha detto Parenzo, a un certo punto mettono di pronto. Si riesce a dimostrare. Vabbè, che il padre ha raccomandato il figlio con Perotti. Non l'ha raccomandato, allora non l'ha raccomandato. È entrato con Perotti così per grazia ricevuta, è entrato per il curriculum, col curriculum, dai su. Ma dimostrate. Raccomandavano pure gli amici suoi, raccomandavano pure gli amici di Lupi. Ma dico, voi siete dentro una radio, la RAI, sono tutti entrati raccomandati, mi scusi. Che c'è questa, questa amica la RAI. È difficile che qualcuno entri in un posto, anche Radio 24 o in Confindustria o in senza Aura raccomandazione RAI, se non è passato attraverso chi? Un meccanismo, no, paghiamolo di segnalazione che qualcuno, ma chi l'ha detto? Qualcuno. ma non è vero ma poi comunque non è vero. Ma non c'entra, se voi che la RAI le entrate sono state in qualche modo favorite di no, ho capito. Al Corriere no. No, ma scusi, Giovanardi, ma sono due cose diverse, no. Però. Quello è il ministro. Quello no, è il ministro. Io ho lavorato con 110 lode a Modena, con 110 lode. Non ho trovato un cane che mi pigliasse a fare l'assistente, perché erano tutti o parenti o amici. Ma questo siamo d'accordo. Ma questo siamo d'accordo. Quindi io non ho fatto l'assistente perché era tutto. E se andiamo nell'università italiana, ma questo siamo d'accordo, ma la stessa cosa ha fatto allora, Lupi, ha piazzato il figlio ragione, presso un tizio che lavora col ministero. E io vi do ragione. Ma è così, ma è nei fatti. E lui si dimette. Fermi io tutti, so, fermi. Sono d'accordo con voi. Se il ministro Lupi ha raccomandato, o si è dato da fare, o si è speso per far assumere il figlio, attenzione, non come direttore generale, come consulente, a pigliare uno stipendio da... vabbè, da ho capito, ma non è una cosa che tutti ragione c'hanno. Voi. Non ce l'hanno tutti questi contatti. Guardate cosa dice, l'hanno dovuto mandare a New York a lavorare. Ah, perché? Fermo lì che torniamo. La Zanzara. Andrea da Roma, vai Andrea. Voglio chiedere a Giovanardi una cosa su... No, velocissima però, Andrea, poi adesso torno da lei. Giovanardi, io voglio capire una cosa. Se abbiamo capito come la pensa lei, ci vuole la pistola fumante, cioè bisogna che si tiri fuori la prova provata, certa al 100%, che lui abbia raccomandato il figlio a una persona che era legata in qualche modo ad affari col Ministero. D'accordo. Io ho qua la dichiarazione di Lupi che dice, io non ho mai spinto mio figlio. Vabbè, ho capito, ma... Dimostratemi, ha chiamato in casa, è in casa, ha chiamato le aziende. Ma su una volta che io vi do ragione, perché poi... Dimostratemi, una volta che vi do ragione, allora, dovete essere soddisfatti di dire: ok, se un ministro si trova che, contrariamente a quanto detto, ha spinto o ha raccomandato il figlio, si deve dimettere. Ma questo è successo. Ma ci sono i fatti, ma non è un'inchiesta penale la raccomandazione. Ci sono i fatti che dimostrano che il figlio è entrato in quel posto grazie alle amicizie del padre al ministero. Ma non è così. Come non è così? Ma che è entrato per grazia ricevuta? Non è assolutamente così. Non è così. Benissimo, ha presentato un curriculum dal signore in quella ditta lì, ha presentato un curriculum, non risulta. Sì, l'avrà presentato formalmente. Non risulta, vediamo. In Parlamento ci sarà chi dirà. Vabbè, Giovanni, i colleghi diranno: adesso abbiamo indagato, abbiamo verificato. Lei sta difendendo l'indifendibile. C'è una cosa che tutti gli italiani odiano: la raccomandazione di un politico. Cosa fanno gli italiani, scusi? No, non odiano. In realtà questo non è vero. Dicono di odiare e nei fatti fanno la stessa cosa. Questo è vero. Questo è vero. Ma sa quanta gente io devo cacciare? Io sono assillato. Da persone che fanno? Che uno vuole andare nel carabiniere, uno vuole andare nella polizia, uno vuole andare... A spiegargli. Guardate, è come a scuola guida, o prendono i test e sono bravi e capaci, studiate, datevi da fare. Sarà un'eccezione lei, Giovanna. Però io... Ma cosa vi dico? Devo pigliare in giro dicendo che i miei concorsi sono... Per carità, no, non sia mai. Non sono la gente è ancora convinta che se uno diventa notaio, se uno diventa avvocato, se uno va a vince all'Accademia Militare il concorso, non è che la gente la è convinta, gente è che voi li avete convinta che lì ci si entra, ma voi li avete abituati, ma non è così, ma li avete abituati così, voi i politici li avete abituati così. Ma come, no, l'Italia è campata, ma sono quanti figli di notari hanno tentato di fare il notaio, 1, 2, 3, e non sono mai riusciti a fare. Lasci perdere il notariato, il punto fondamentale è che i politici magari non come lei, perché lei non ha fatto nessuna raccomandazione, hanno rovinato questo paese, paese e la demagogia imperante di un paese che odia la meritocrazia. E vabbè, se qualcuno arriva a fare qualcosa con le sue gambe, la prima cosa che dicono è che è arrivato perché è stato adesso lei non può fare però l'anima così, l'anima bella, non può, è stato in questo paese in Parlamento per tanti anni, per cui non è che non faccio le mie, no, voi fate le anime belle e fate quelle che scendono dalla luna, fate lei non ha combattuto con questo sistema, non ha combattuto, ma lei non ha combattuto con questo sistema, però non ha combattuto contro questo sistema. Come non ho combattuto? Assolutamente. Tutta la mia storia politica è la dimostrazione, ma mica solo io, che si può fare politica, si può fare senza raccomandare nessuno, senza sporcarsi in nulla, fare le battaglie a viso aperto. Allora, io voglio capire una cosa: se Renzi costringe Lupi alle dimissioni, il governo cade? Ma questo è un problema politico. No, ma politicamente, questo sto dicendo. Ma non perché se Renzi dice una parola, è chiaro che Lupi si deve dimettere. Appunto. Però io dico, si dimetteranno anche i 3 sottosegretari o 4 che hanno gli avvisi di garanzia e hanno... Dunque lei dice, se Renzi dice una parola contro Lupi, si devono dimettere pure gli altri, anche De Luca magari. No, quelli che hanno... ma come? Viene condannato il presidente della regione Emilia Romagna in appello e Renzi rimane definitivo, la mia fiducia. Ma è stato condannato, mentre Lupi non ha nessun avviso di garanzia. Abbiamo sottosegretari con avvisi di garanzia, abbiamo uno sospeso come De Luca. Allora, se Renzi dice applichiamo una regola, come è stata applicata Berlusconi? Dunque, è stato buttato fuori dal Parlamento se Renzi dice persona indegna. Vabbè, è stato condannato definitivamente. Però se Renzi dice... lasciamo perdere Berlusconi, Giovanardi, se Renzi dice... Allora, io dico che bisogna trattare le persone nella stessa maniera. Se Lupi viene messo fuori dal governo, non perché è indagato, ma perché per la storia del figlio, di cui abbiamo parlato fino adesso, allora quelli che sono indagati, a maggior ragione. E però salta il governo, è evidente che cade il governo. Non cade il governo. Perché senta, io voglio capire una cosa, vuole fare gli auguri a Bendola? Si fa un riparto. Vuole fare gli auguri a Bendola che si sposa e vuole adottare un bambino? Dunque, così ha proclamato, voglio sposare Ed e adottare un bambino. Come sempre ho fatto. gli auguri a tutte le persone che hanno un equilibrio e raggiungono un equilibrio nella loro vita. Vabbè, quello... Se invece vogliono adottare un bambino, non faccio gli auguri né a quel bambino adottando. Spero che l'ordinamento gli impedisca di adottarlo. Vabbè, è agghiacciante. Come è noto la mia posizione. Cioè, lei spero che l'Italia impedisca. Abbia finalmente messo in luce, come ho sempre detto, che la maggioranza silenziosa degli omosessuali, io ho sempre detto gli omosessuali normali. Ma perché deve farsi e non quelli esibizionisti o quelli fondamentalisti ragionano in termini di persone che hanno avuto un padre, una madre. Cioè la maggioranza silenziosa degli omosessuali è contro il matrimonio e contro l'adozione? Sì, secondo me assolutamente sono sulle posizioni di Dolce Gabbana. Sì, assolutamente. Che sì. Poi non si sa bene se è di Dolce o di Gabbana. Che pensa di poter andare a sfruttare la povertà, la disperazione, luxuria. Per commisolargli. Ma l'usura, io ho risposto all'usura. Credo Giovanni deve andare a fare il modello per Dolce Gabbana. E io ho risposto: sì, Dolce Gabbana, diversamente da l'usura, sono omosessuali normali e non vivono di omosessualità come l'usura, che ne ha fatto un mestiere. Cioè, dice l'usura ha fatto del suo mestiere l'omosessualità, la transessualità. E di cosa campa? E invece Dolce Gabbana, come decine di migliaia di omosessuali che hanno sfondato nella cultura, nella moda, nell'arte, nell'imprenditoria. Nella politica sono arrivati a posizioni di grandissimo rilievo perché sono intelligenti e sono bravi. Invece quella è un omosessuale anormale, diciamo, luxuria. No, lei ha detto quelli sono normali e quell'altro è anormale. Allora, gli altri sono normali perché io l'omosessuale li considero nella normalità. Sì. Chi invece della sua omosessualità ne fa una questione, diciamo, lavorativa, perché comunque lei spera che l'Italia impedisca a Bendola di adottare un bambino? Assolutamente sì, nell'interesse di quel bambino. Io quando spera che l'ordinamento italiano impedisca a Bendola di adottarlo. Allora, l'ordinamento lo proibisce intanto. No, ma che lo proibirà e c'è anche il futuro. Intanto lo proibisce. Beh, magari quello là, il suo compagno canadese, vanno in Canada, adottano un bambino e lo portano in Italia. Scusi? Magari il compagno canadese va in Canada, lo porta in Italia, le cose sono più complesse. Vabbè, come no? L'ha fatto quel deputato, quel senatore del PD, lo può fare pure. No, ha fatto la cosa peggiore, il deputato del PD ha fatto un utile in affitto. Vabbè, ha trovato una. Sì, vabbè, ma le cose di fatto, anche se quante cose illecite vengono fatte. Ma un conto è se l'ordinamento lo consente. Quante persone vivono che c'è, Lorenzo, in Italia stai scapitando, che c'è? Oligamia, mi scusi, aspetta, ma non ho capito, ma quante persone vivono nei paesi vicino a noi con la poligamia? Sì, Lorenzo, il problema è che siccome l'ordinamento italiano di accettare la costituzione della poligamia. Ma che c'entra la poligamia? Allora abbiamo detto, io cerco, voi cercate di palli in frasca. No, che c'entra la poligamia? Ci sono delle situazioni di fatto. C'è la mutilazione femminile. Vabbè, ho capito, la poligamia non è la stessa cosa. La poligamia non è come... La stessa cosa. Sì, ho un rapporto poligamico permesso in un paese. Ah, legge come principio generale. E poi vengo in Italia. Certo che di fatto Italia, o in Germania o in Inghilterra continua a essere poligamico. Sì, però vabbè. Non è che l'ordinamento italiano. Parenzo, che volevi dire? Non ho capito perché dobbiamo stare un quarto d'ora a farci pigliare per il naso dall'amico Giovanni. Ma su che cosa? Scusa. Parenzo, noi ci vediamo in tribunale, vedrà che la si spiegherà. Spiegherò perché lei ha costruito una carriera politica sul caso Bucchi e se vuole ci vediamo di nuovo in tribunale, ma che c'entra questo adesso? No, ma infatti non c'entra, come ha citato la causa. Allora? Ma non sto qui sugli argomenti di oggi, farmi pigliare per il naso o per il culo a seconda dei gusti. Nella ricostruzione, lasciamo stare il commento sulla vicenda. Ma mi avete invitato voi alla trasmissione o sbaglio? Ma che c'entra? No, ma va benissimo. Se no, rifacciamo come un'altra volta. Alla trasmissione, vengo volentieri. No, ma non ho capito che c'entra. È la seconda volta che vengo invitato. Devo essere chiamato per essere insultato. Vi saluto. Dico al signor Parenzo di nuovo: ci vedremo in tribunale. Parenzo, dai, vai al sodo, però. Forza, dai. No, ho detto, tolto quel caso lì e ci vediamo in tribunale. Benissimo. La doppia barbarie che ho sentito, lascio stare il caso Ventola, quello che le barbarie di quelle parole, ma farci pigliare per il naso è una critica politica sulla ricostruzione del caso Lupi, cioè quando non vuol ricordare l'unico dettaglio della vicenda che i protagonisti stessi si accorgono del fatto. Ma l'hai già detto, l'ho detto, ma siccome lui si gira intorno, poi sul fatto della raccomandazione che tutti lo fanno, alta bestialità. ma c'è una differenza fondamentale tra il fatto che uno ha un ruolo politico e quindi ha un potere, e invece una persona quale ad esempio potrei essere io, che magari ho un fratello laureato con 110 lode in giurisprudenza, conosco un avvocato e gli dico sì, guarda, assolutamente, assolutamente. Allora, c'è una differenza o no? Viva Dio! C'è una differenza, c'è una differenza. Che è molto più avvantaggiati, siete molto più avvantaggiati voi, lo eccola, so. Eccola, perché i politici, se va a Cruciani da uno studio di avvocati a perorare la causa del figlio, sì, è sicuramente più ascoltato di qualsiasi parlamentare. Cioè, i politici sono discriminati in Italia. Ma stiamo scherzando? Se ci va poi un cantante o un attore famoso o un imprenditore famoso, no, mi spieghi, i politici sono discriminati. I politici sono discriminati. State tranquilli, non ho detto che sono discriminati, ho detto che se va il presidente di Confindustria a chiedere questa cosa o qualcuno della Fiat o qualcuno che ha una sua visibilità pubblica, state tranquilli che è molto più ascoltato. Lei ci sta dicendo che i politici, i figli dei, aspetta, chiudiamo su questo, che i figli dei politici in Italia hanno meno possibilità di altri, perché no, quando uno non sente, stavamo parlando di questo, no, ma ho capito, stavamo, questa è la domanda, la domanda ha detto, ma che se vabbè, lui va come farebbe da un avvocato, ha più possibilità di un politico, ha più possibilità di un politico, è ascoltato meno di quanto è ascoltato un parlamentare che raccomanda qualcuno. Non è vero, io sto dicendo che è esattamente il rovescio, perché in Italia chi è potente nell'impresa, appunto, nelle associazioni, nel teatro conta di più del parlamentare, conta musica di... E uno di questi personaggi, compresi voi, dovesse andare in uno studio di avvocato a chiedere per vostro figlio di incominciare a farlo lavorare, conta molto di più le persone che ho detto prima di un qualsiasi parlamentare. Allora, Giovanardi qui da noi ha detto diverse cose riguardo le raccomandazioni, tutti gli italiani le fanno, tutti gli italiani appoggiano i figli dei politici sono trattati peggio rispetto ai figli di altre persone, per esempio mia figlia, secondo Giovanardi, ha più possibilità, se io chiamo qualcuno, di ottenere lavoro rispetto a quante possibilità abbia se chiama Giovanardi per la figlia, eccetera, eccetera. Capito, Parenzo? Questa è la no, sostanza. No, ho capito che non vedo l'ora di andare in tribunale, perché veramente... Vabbè, ma adesso chi se ne frega dalla querela da te, farsa. Giovanardi? Non ce ne frega un cazzo. No, infatti, quello... L'ha citata lui, mica io. Ma sì, va bene, andate in tribunale, non so perché, tra l'altro. Le per cui... argomentazioni, perché io ho detto che sul caso Cucchi ci ha costruito una carriera politica. Vabbè, Antonio, ma non è per questo. Non mi sembra che abbia costruito una carriera politica sul caso Cucchi, su altre cose. Mi sembra benissimo, su quello e su altre differenze. Antonio Provincia, comunque non mi interessa. Il tribunale tra te, Giovanardi, di interesse zero. Antonio Provincia di Milano. Ha raccontato la favola dell'orso su quella vicenda incredibile. Antonio Provincia di Milano, dai, Antonio. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Ma vuoi vedere che adesso a Giovanardi gli dobbiamo raddoppiare il vitalizio, perché magari sono penalizzati i figli, i familiari e tutta la settima generazione? Così ha detto, i figli dei politici sono penalizzati rispetto agli altri. Dobbiamo raddoppiare il vitalizio perché è un danno. No, quello adesso non l'ha detto, cioè, bisogna raddoppiare il vitalizio. No, no, no, perché è un danno che stanno subendo. Io sai che cosa mi aspettavo da Lupi? Sì, ho mandato a mio figlio a lavorare perché si è laureato in 110 e lodo, ha due palle così, è un grande ingegnere. E deve lavorare, perché io sto nella cosa pubblica. La cosa che io mi domando, ma quello da 7 anni, dottore Ercole in calda, ma chi cazzo è? È partito dalla cassa del mezzogiorno, è finito nelle tangenziali, cioè... Ma là è la domanda, non è il figlio di Lupi che se... Vabbè, quella è un'altra domanda un po' più ampia, forse anche più importante, no, per il paese, diciamo il fatto che in calza sta là da tanti anni, non c'è dubbio. Mi ha rovinato anche il figlio di Lupi, e il padre... C'è il padre, il signor Lupi, il ministro, ma guarda, è la persona più brutta, perché doveva dire sì, mio figlio è un ingegnere, deve lavorare nella cosa pubblica. No, no, ma infatti bisognerebbe rivendicare una cosa del genere. Lupi dovrebbe rivendicare, sì, mio figlio è bravo, ha preso 110 lode, c'era un'azienda di persone che conosco, di persone che conosco molto bene, e ha presentato un curriculum, è stato sentito, ha fatto un colloquio con i signori di questa azienda, l'hanno preso, guadagna 1300 euro al mese, allora dovrebbe avere le palle per dire una cosa di questo. Invece no, non ho mosso un dito per raccomandare mio figlio. Ma ragazzi, amica, siamo nati ieri. Allora, questo non siamo nati ieri, dai. Mi permetto, scusa la parola, cioè, l'ultimo dei cronisti vintage, Parenzo, che ci sono in circolo, voglio sapere, perché lui un'inchiesta delle, il figlio del ministro Lupi, quanto vale in quell'azienda? Cosa ha fatto? Chi ha Ma perché c'è? Quello è il primo lavoro, è il primo lavoro, quanto vale? Sì, che c'è? No, voi sapete se è valido, cioè scusa, sono soldi miei, cioè, voi sapete se io, mica ma soldi tuoi no, perché sono soldi di quell'azienda lì, non sono soldi tuoi. Ma comunque, al di là di quello. Ma è una cosa pubblica? Ma chi? Come chi? La, il figlio del ministro lavorava presso un'azienda che lavorava per lo Stato. Sì, l'ENI, no, il primo contratto è stato credo con l'ENI, dove l'ENI, sì, con l'ENI, sì, un'azienda legata all'ENI, sì, vabbè, ma comunque al di là di questo. Che faceva? Portava le carte? Ma non lo so, adesso non mi interessa il primo lavoro adesso di Luca Lupi, il problema fondamentale è un altro, il ministro Lupi dovrebbe avere le palle, secondo me, per andare in Parlamento e dire sì, è vero, mio figlio ha preso 110 all'ode, hai ragione tu, è un ingegnere favoloso, è bravissimo, conosco delle persone, gli ho fatto fare un colloquio, ha preso questo lavoro, e allora non rompetemi i coglioni. Voi italiani siete uguali, per i figli fate di tutto. In realtà non è così, perché io per esempio non raccomanderei nessuno. Sai, mia madre ogni tanto mi rompe i coglioni su mio fratello, su altre persone, mi fa chiamare, sai Parenzo, mia madre è pazzesca, mi chiama, mi dice senti, ci sarebbe questa, come se io fossi un ufficio di collocamento, voi mi conosce poco forse, ci sarebbe questo qua. Ma adesso perché devi dirlo alla radio? No, ma io devo dire alla radio perché io sono fatto così, dunque dico il cazzo che mi pare. Allora mia madre mi chiama e mi dice Giuseppe, ci sarebbe questa persona qui, non è che puoi fare qualcosa? Io dico mamma scusa, io non sono un ufficio di collocamento, cioè, no, non ma posso, di questo, non devo fare nulla, non posso raccomandare a nessuno, odio raccomandare alle persone che poi ti fanno fare delle figure di merda pazzesche perché magari sono delle pippe nel lavoro che fanno. A mio fratello, a mio cugino non servirà assolutamente perché è un bravissimo studente con la media altissima, ma se io conoscessi, non ho bisogno poi perché anche mio padre è avvocato, quindi non devo raccomandare da nessuna parte, ma se avessi un amico carissimo, ad esempio, non ho mai fatto nulla, mai. Ti sto dicendo un'altra cosa, poi usala come ti pare. Ma se io avessi un amico caro, una persona alla quale che so essere bravo e sta cercando lavoro e riesco a metterlo in contatto con qualcun altro, non ci vedo nessun tipo di problema, non è una raccomandazione. Ma no, vabbè, certo, una segnalazione di una persona, ma certo. Telefonate di imbecilli. Ma io te lo dico apertamente, non mi è mai capitato. Sì, fermo, dobbiamo dare il traffico. Il traffico è il problema. Lui è Mario, un idraulico. Io lo accompagno sempre da ogni cliente. Lui si occupa delle riparazioni e io dei pagamenti. Carta di credito, bancomat, con me ognuno paga come preferisce. Così eliminiamo le perdite d'acqua e le perdite di tempo. Chi sono? Il POS sicuro di Vodafone e Setefi. Metti la tecnologia Vodafone al servizio della tua attività. Se hai la partita IVA, scegli la soluzione per potenziare il tuo lavoro e diventare un ready business. Vai su readybusiness.vodafone.it. Messaggio pubblicitario, concessione POS soggetta all'approvazione di Setefi. Fogli informativi su monetaonline.it. Quando devi fare tante cose hai bisogno di più energia? Su con Sustemion Plus e Menarini in farmacia. Vi presenta Strade in diretta. Buonasera, traffico ancora sostenuto attorno alle principali aree urbane. Sulla 22 del Brennero, per un incidente risolto, si incontrano 2 chilometri di coda tra Carpi e Campogalliano verso Modena. Vi segnalo che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina rimarrà chiusa la 24 Roma-L'Aquila-Teramo, nel tratto compreso fra Teramo Ovest e Valvomano verso Roma. È tutto, torniamo ad aggiornarvi tra un'ora circa. La Zanzara. Senti, ti voglio dire una cosa Giuseppe, sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. Stefano Milano, Stefano. Buonasera, dunque io sono il figlio di un piccolo imprenditore e come dire, per solidarietà nei confronti dei figli di Giovanardi mi sentirei di chiedere a mio padre di assumerli perché poverini, capisco che effettivamente con la posizione del loro padre possano essere un po' discriminati. Cioè, lei dice che non mi spieghi un po' che cosa vuole proporre a Giovanardi? No, niente, visto che appunto Giovanardi sostiene che i figli dei politici sono tutti un po' discriminati, mi sembra di aver capito questo, no? Che sì, dice che i figli dei politici sono svantaggiati rispetto agli altri, sì. Poverini, allora bisogna dargli una mano perché siccome le ingiustizie vanno combattute, mi sembrerebbe logico dargli una mano. Vuole offrire un lavoro ai figli di Giovanardi, che non credo abbiano bisogno, però io se vuole mi metto in contatto, certo, assolutamente. No, se posso permettermi aggiungerei solo una cosa, sarei anche curioso di sapere questo, se il figlio di Lupi al primo contratto, come capita a tutti i normali esseri umani, si è ritrovato magari con uno stage o con un rimborso spese da 400 euro, come capita a tutti i neolaureati, a prescindere dal fatto che lei dice che i 1200 euro del figlio di Lupi sono troppi. Io dico che normalmente un neolaureato oggi, quando trova un contratto, no, quando trova un impiego con un rimborso spese, in generale fa i salti di gioia, perché in tante aziende al giorno d'oggi si va a lavorare e poi i soldi si portano a casa dopo che uno ha già dimostrato di essere una persona in gamba. Ho capito. Guardi Stefano, faremo presente. Franco, Roma. Buonasera. Dimmi. Grazie. Prego, dimmi. Niente, io volevo saltare un po' il discorso delle raccomandazioni, ho mali tutto italico, quindi ma volevo tornare al fatto delle tangenti, che qui non passano sei mesi in Italia che non esce fuori qualcuno che si è rubato, allora? Qualcuno che si è rubato centinaia di milioni di euro. Poi sento il governo che dice che i soldi non bastano mai, le tasse aumentano, io in pratica pago le tasse per poi farmeli rubare. Giuseppe, mi sono rotto le palle, così non si può andare avanti. Cioè dice, cioè, di fronte a queste tangenti mi sono rotto i coglioni di pagare le tasse. Beh sì, in un certo senso. Aspetta un attimo, aspetta. Squilla il telefono della Zanzara, sentiamo. Allora Franco, stavi dicendo, ti sei rotti i coglioni di farti derubare? Sì, ma io come tutti i piccoli e micro imprenditori in Italia, no? Cioè ormai siamo, anch'io so, la mia piccola azienda sta per essere strozzata dalle tasse e poi devo sentire che ogni sei mesi c'è qualcuno, chi la tavva, chi questo, chi quell'altro, ruba centinaia di milioni. Basta, non ce la faccio più, mi sono rotto le palle, voglio dare le dimissioni da italiano e da contribuente. Io qui avrei finito. Ok Franco, ok, ciao. Francesco Ancona, vai. Pronto? Francesco, dimmi, dai. Ciao, ascolta. Io ascoltavo un attimo quella cosa che state dicendo sui vitalizi. Di che regione era quel consigliere? Era della regione Veneto, ex Italia dei Valori. Esatto, perché io sono consigliere comunale ad Ancona, al Movimento 5 Stelle, e noi nel 2011 abbiamo fatto... Aspetta un attimo Francesco, dopo torno da te subito. Allora, in Campania, a Piazzolla di Nola, è uscita una cosa incredibile. Cioè, una signora, ragazza... Pronto? Pronto? Sì, niente. Pronto. Pronto? Pronto. Chi è? È sempre Francesco? Chi è? Non è Francesco. Va bene, Francesco, allora, Francesco D'Ancona, vai. Continuo. Sì, dimmi. Allora, dicevo che abbiamo raccolto oltre 5.000 firme per una iniziativa, una proposta di legge popolare per abolire i vitalizi in Regione Marche. Poi cosa è successo? Che è stata fatta una legge regionale per l'abolizione dei vitalizi e molti consiglieri, come diceva giustamente, hanno rinunciato ai vitalizi. Per esempio il presidente della regione Marche ha rinunciato al vitalizio, sì. Soltanto che si è preso 394.000 euro cash, perché tutti i contributi versati... No, vabbè, sì, certo, tu dici molti rinunciano al vitalizio e si fanno restituire i contributi versati. Esatto, invece di una cosa che, cioè, cosa è che è incredibile, perché non era stato detto, voglio dire. No, io non credo che questo signore qua, adesso sarebbe clamoroso, perché se è andato in televisione, credo che sia la trasmissione di martedì. Se è andato in televisione e ha detto ho rinunciato al vitalizio e poi si è intascati i soldi dei contributi, lo piglio a calci in culo. Il 20% dei contributi, perché molti consiglieri anche nelle Marche hanno rinunciato, però le Marche si sono trovate in difficoltà perché hanno dovuto dare tutti i soldi subito. Cioè, la Capodanno ha versato 394.000 euro a spacca, quindi no, Francesco, questo è da controllare. Adesso bisogna vedere. Assolutamente. Se questo signore che si chiama Marotta ha rinunciato al vitalizio e si è fatto ridare indietro tutti i soldi dei contributi versati, lo piglio a calci in culo. Quello è evidente, no? Cioè, perché i soldi versati, ma probabilmente è così, perché sicuramente non c'è una rinuncia così a babbo morto. Però non lo so, però lei, cioè, nelle mani parlo delle Marche perché l'ho seguito. Questa cosa, sì. Era solo per dare informazione. Poi onestamente un'ultima cosa, velocissimamente, sono stato 20 minuti al telefono ad ascoltare e sentire Giovanardi che parla di adozioni in quella maniera, io giuro, è un effetto devastante. Ma sulle adozioni gay, però la posizione di Giovanardi sulle adozioni gay non è una posizione nuova. Io sono papà adottivo, no? E, cioè, non esiste un diritto per adozione né per per eterosessuale, cioè per no, beh, in Italia è proibita l'adozione tra gli omosessuali. Sì, ma non esiste un diritto, questo vuol dire, sia per i gay che per gli eterosessuali, non esiste un diritto. Cioè, l'unico diritto che c'è per un minore per ad avere una famiglia adatta. Ma ci possono essere dei casi in cui dei minori non riescono a trovare delle famiglie eterosessuali formati da mamma e da papà. No, però normali. Scusi, stai parlando di una cosa molto chiara, cioè in Italia non è consentita per il momento. Io sono favorevole. Ma non è neanche detto, perché comunque No, aspetta, in casi particolari. Beh, certo, se muore la moglie, se diciamo parlando degli uomini, dell'omosessualità maschile, se muore la moglie e quello si mette con un uomo, è chiaro che quello resta dentro casa. No, Cruciani, ascolta, dico che se sono single, in certi casi il tribunale può dare in adozione in casi particolarissimi. Sto parlando di casi particolari. Vabbè, ma c'è un tribunale che decide una cosa. Va bene, ho capito benissimo. Ma che meraviglia, io sono pazzo di voi due. Se fossi nata donna non saprei da chi farmi corteggiare e chi avrei corteggiato. Piazzolla di Nola, siamo in Campania, i suoi bravi e brave ragazze, così inizia un manifesto che è stato diffuso in tantissime copie, in cui si legge una breve sintesi dell'attività puttanatoria di Piazzolla. Pronto? Pronto? Sì. Signor Lamarca? Signor Antonio Lamarca? Lei chi è? Sì, buongiorno. No, ho letto questo volantino, ma è lei il numero 3 del volantino? Ma che cosa stai dicendo? No, io scusi. Io sono Lamarca, ma non sono questo volantino. Il volantino di Piazzolla di Nola, no? Sì. Antonio Lamarca, bar... È un mio omonimo, quindi non sono io. Antonio Lamarca, bar White Leon, si trombare dai trans, eccetera, eccetera. Non è lei, no? No, così c'è scritto nel volantino, scusi signor Lamarca, non è lei. Pronto? Signor Lamarca? L'omonimo, signor Lamarca. Guarda che è un volantino incredibile, ci sono 20 casi con tutte le descrizioni dei rapporti, triangoli. Sì, ma immagine di questo poveretto che è omonimo. L'omonimo, signor Antonio Lamarca, bar White Leon, si tromba, barra, si fa trombare dai trans e la moglie Antonella si gode la libertà, tanto è abituata a trombare, poi non leggo male, eccetera, eccetera. Vabbè. Ma c'è l'altro, chiamiamo l'altro Lamarca, vai. Tu sei un depravatone, mi piace anche per quello, anche Parenzo un po' depravato. Pronto? Sì, signor Lamarca? Sì? È Antonio Lamarca? Sì, ma lei chi è? Sì, buonasera, no, stavo cercando il signor Antonio Lamarca, quello del volantino. No, ha sbagliato. Non è lei? È la signora Antonella? No. È la signora Antonella? Infatti, perché mio padre è morto. Perdoni, suo padre è morto, per carità. No, assolutamente. Un abbraccio, arrivederci. Prego, per carità. Pure il padre morto abbiamo beccato. Va bene, Bruno Pordenone, vai, Bruno. Ciao Giuseppe, ciao. Dimmi. Niente, a me dà fastidio sempre sentire quel cazzo di Giovanardi. Parla di cose illecite in Italia, questo, quell'altro. Una cosa che ha fatto, l'ha fatta anche sbagliata, equiparando la droga pesante alla droga leggera, puttanate varie. Mi ha fatto prendere a me 3 anni e 6 mesi per 10 grammi di erba, che gliela farei fumare tutta prima di capire, hai capito? Poi parla di cucchi, senza rispetto per la famiglia. Una merda del genere, anche voi che gli date aria ancora con la cazzo di bocca, dobbiamo chiuderla, tu stai sbagliando sempre a chiamarlo, perché fai alterare le persone, perché a me quei 3 anni e 6 mesi sulla legge anticostituzionale appena approvata anche la Camera, che ha fatto una puttanata di merda, parla anche male dei froci, dei gay, chiamiamoli come cazzo vogliamo, quando lui è il primo ricchione di tutta Italia. Beh, che adesso... si fa inculare prima da Berlusconi, adesso si fa inculare da Renzi, hai capito? Ma cosa ci deve insegnare? Cosa deve insegnare lui a Parenzo di cosa? A te? Cosa, ma spiegatemi chi è quella nullità di uomo. Beh, io non userei questo linguaggio, diciamo. Ma tu non useresti questo linguaggio, sino Bruno da Pordenone. Ma cazzo, io mi sono preso 3 anni e 6 mesi per no, 10 grammi di erba. Posso essere d'accordo con lui sulla cosa? Fallo parlare un attimo, fallo parlare. No, capito, ma posso essere anche d'accordo. Vabbè. Allora Daniel, Bruno, dimmi, no, no. Cosa, ma non ho capito che dagli aria a quella persona lì, basta dagli aria, poi parla anche ora di Cookie, se lui faceva la legge giusta, la gente, i carabinieri, questo e quell'altro, che vanno a menare quelli che bevono a scrocco, mangiano a scrocco nei bar. Quanto hai preso tu? Non ho capito quanto hai preso alla fine. 3 anni e 6 mesi per 10 grammi di erba e ancora mi vengo a sentire che parla male di Cookie per cosa? Per 10 grammi di hashish, ma dove cazzo siamo arrivati? In Uruguay è libera di Stato, in Olanda, dappertutto è tutto libero. E questo qui la mattina si sveglia, primo ricchione di tutta Italia. Ma perché c'avevi il primo ricchione? Prima che c'è? Per lo scuole, dopo lo da Renzi, per me lui è un alcolizzato. Per me lui è un alcolizzato. Pure alcolizzato. Per me lui è un alcolizzato perché io l'ho visto in televisione, perché se per lui uno che si fuma la canna è un tossico, per me uno che si beve un bicchiere di vino è un alcolizzato a sto punto, capisci? Io li ricambio con la stessa moneta uno così. Però scusami Bruno, tu che vabbè, d'accordo. E tutto LCD si stappavano una bottiglia di champagne di inaugurazione del nuovo centrodestra. Però io non ho capito, tu sei... Allora, se io per lui sono un tossico che mi fumo una canna, ok? Se me la fumo una canna, per me lui è un alcolizzato che si beve un bicchiere di vino, punto. Io non ho capito una cosa, Bruno, tu sei incazzato come una bestia con Giovanardi, ce la vorresti ammazzare? Ma per una legge del genere dopo ti discrimina i gay, quando lui è il primo frocio che ti ripeto, prima. Ma perché è frocio? Sì. Ah, per questo, diciamo, no? In senso metaforico frocio, dici te. Ma certo, e allora, cioè, è normale che sia un metaforico. Ma perché c'avevi tutti quei grammi di erba tu? Ma perché io me la fumo l'erba. Cioè tutti quei grammi tutti insieme te la fumavi tutta, non è che li spacciavi, no? Ma secondo loro spacciare, fumare in compagnia è anche spaccio, capisci? No, ma per carità, con me sfondi una porta aperta su questo, Bruno. Però lasciami invitare, lasciami invitare Giovanardi quanto mi pare. Ciao. Allora, mentre ci sono politici che raccomandano i figli, mentre c'è un'Italia che cerca lavoro in tutti i modi, c'è una signora che si chiama Mistress Kelly, non so se posso dire il nome originale, ma probabilmente sì, noi ce l'abbiamo qui, Mistress Kelly a Torino, che ha fatto del sadomaso il suo business, cioè lavora e guadagna con il sadomaso, lo pratica, fa solo questo, non è prostituzione, e vorrebbe riconosciuto il suo lavoro, per carità, non le categorie, vorrebbe pagare le tasse. Cara Mistress, come stai? Ciao, tutto bene. Ciao, tutto bene. Quanti anni hai, cara Kelly? 34. Beh, 34, ma che hai fatto nella vita? Come sei arrivata a fare la mistress, cioè la dominatrice in sostanza? Guarda, ho iniziato per passione in privato con un mio ex compagno. Cioè che facevi, lo picchiavi? Anche, picchiavi, poi che facevi? Infilavi qualcosa dietro, varie pratiche, o no? Sì, varie pratiche, adorazione dei piedi, umiliazioni verbali. Umiliazioni verbali, adorazioni. Giochi di ruolo, abbiamo usato molto la fantasia. Questo quando eri, diciamo, in coppia, no? Quando eri esatto, in coppia. Esatto, ho iniziato più o meno verso i 20 anni. Parenzo, c'è una certa creatività in tutto ciò, no? C'è chi si ingegna per trovare lavori facendo l'avvocato come tuo fratello. No, per carità, un talento la signora. E invece il talento che ha coltivato nella sua relazione l'ha portato poi nel lavoro, diventando... Premetto che io sarei dovuta diventare avvocato, studiavo legge. Diciamo che avresti guadagnato molto meno, a meno che non diventavi un avvocato famosissimo. E mi sarei anche un po' annoiato. Beh, non lo so, quanti soldi guadagni, cara Kelly? Ecco, questa è una domanda a cui non mi piace rispondere. Beh no, come non rispondi? Dai, su, dimmi, che ne so, 200.000 euro l'anno, quanto guadagni? 300? Non lo so, non ho mai fatto un calcolo. Però tutto è nero, diciamo la verità, tutto è nero. Diciamolo, tutto è nero, per forza, altrimenti che fai ricevute quando fai la dominatrice? Purtroppo non c'è, non scrivere sulle ricevute dominatrice. Guarda che non ti mandiamo la finanza, non ti preoccupare, non ti mandiamo lei la finanza. Lei per la sua attività, ma hai pensato ad esempio di aderire alla Confindustria come azienda? Sì, se si capisse qualcosa di quello che dice Parenzo, io traduco, perché traduco sì, dal nulla. Sento lontano, sì, ma traduco dallo zero, dal nulla a qualcosa di comprensibile. Parenzo dice in sostanza che lei ha pensato di aderire a qualche associazione di imprenditori o cose di questo tipo? No. Ma se ci fosse la categoria imprenditoriale delle mistress o delle dominatrici, perché no, potrebbe essere un'idea. Si potrebbe anche creare un partito politico delle donne dominanti. Beh, guardi, credo che qualche cosa rimedierebbe lei a livello di voti, non è detto. Ma più che altro perché adesso in politica noi parliamo di prostituzione, quindi di donne, scusi la volgarità, che la danno via per soldi, che usano il proprio corpo, ma sì. Di solito la maggior parte delle politiche danno il proprio corpo per stare al posto dove sono. Beh, non è detto, non è così, succede, è successo, ma non è che tutte le politiche danno via, no, tutte no, danno mi via il corpo. Di no, dai, mi su. Di no, certo. Vabbè, io non ho capito una cosa, signora Mistress Kelly, lei è stata pure condannata incredibilmente una volta per che cosa è stata condannata, non mi ricordo, per favoreggiamento alla prostituzione. Della prostituzione. Certo, in realtà appunto... che succedeva lì, che lei era con delle persone, ero con delle colleghe, dominatrici. Esatto, sì. Che facevano anche loro sadomaso, quindi non c'era il contatto sessuale, non c'è niente. Ma scusi, come si può fare, adesso al di là della sua condanna, chi se ne frega, come si fa a diventare, cioè a fare della professione, a far diventare una professione la dominazione? Cioè, ci sono veramente tanti clienti, quanti clienti ha lei, che ne so, al mese? Allora, guarda, innanzitutto per fare la dominatrice bisogna avere la passione e l'indole. E le palle, Ma sicuramente non è... Cioè a lei piace fare male? Facile. A lei piace fare male? A me piace innanzitutto, sì, fare male, sembra che sono comunque sadica, mi piace molto anche dominare mentalmente. E un'altra cosa che mi piace, che è sempre sottovalutata, capito, per chi giustamente non conosce l'argomento, sì. È il fatto che comunque per essere mistress bisogna essere persone molto sensibili. Beh, adesso sì, certo, bisogna essere sensibili, sì. Però bisogna essere anche delle tremende, bisogna essere anche delle gran figli di puttana, diciamo la verità. Cioè io sono una bambina monella, vuoi dire un enfant terrible. Senta, ma adesso non le faccio descrivere le varie pratiche perché sono tremende, alcune me le hanno descritte prima, sono terribili. Cioè, la cosa che le chiedono, la prima cosa che le chiedono qual è? Quella più comune? Più comune sono sicuramente l'adorazione dei piedi. Come? Ma che vuol dire l'adorazione dei piedi? Come fa uno a pagare per subire l'adorazione dei piedi? Perché purtroppo tante donne non apprezzano l'idea di avere un compagno che gli baci i piedi o che gli faccia un massaggio ai piedi. E lei bacia i piedi? Adorabile. E lei bacia i piedi? No, loro mi baciano. Ah, loro, sì, loro adorano i piedi. Dominante, sì, è vero, sì, adesso per un attimo mi sono perché io sono abbastanza, voglio dire, non è che il sesso mi piace, però ecco, la dominazione no, non so, per queste pratiche non sono appassionato. Loro pagano. Non l'hai mai provato, magari ti potrebbe piacere. No, per carità, non voglio provare perché come altre cose, se uno prova poi. Allora, ci vuole molta cerebralità. Per allora, adorare i piedi e uno paga, che ne so, fino a quando? A 200 euro per toccare i suoi piedi? Quanto? Ma si parla sempre di cifre, non mi piace. Ma no, ma così, per fare un esempio, mica ho detto quanto incassa al giorno, sto dicendo, che ne so, uno per baciare i suoi piedi, per odorare i suoi piedi, quanto paga? Bravo. Ma no, ma è interessante come cosa. No, ma chi se ne frega sono dei piedi? Sono sicuramente cose. Ma che vuol dire chi se ne frega dei piedi di questa qua? Se questa qua ha fatto ha creato un mestiere. Ma se non te ne frega niente, stai zitto, no? Ma dico, ma chi se ne frega di uno che paga per baciarti? Ma è quello il punto, altrimenti che domina. Io, al di là della mia professione, per me è proprio una passione, quindi non è detto che. Ma che gli strumenti più utilizzati quali sono? Che in contatto con me paghino per baciarmi i piedi. Io per forza pagano. Personale. Vabbè, quello è un altro discorso. No. Io ho il mio schiavo personale oppure vado a. Lei ha un suo schiavo personale? Certo, il mio schiavo personale. Che porta le feste. Lei porta. Anche le feste. Porta le feste legato, magari, legato. Non è detto, lo posso. Senta, lo strumento legato. Più utilizzato, che lei utilizza di più sugli uomini, immagino, ma anche sulle donne forse? O sono gli uomini i suoi clienti? Sicuramente uno degli oggetti in primis che si utilizza nel BDSM è il collare. Che ne so, le fruste, i battipanni. Fruste e battipanni si usano? Si usano anche le fruste e battipanni. Fruste e battipanni. Ma chi è che si fa mettere un collare? Ma io veramente. Ma va benissimo, chi se ne frega, è ovvio. No, ma la cosa che mi fa impazzire è un'altra. Chi è al di fuori di questo mondo non capisce. Ma io infatti ci provo ogni tanto per qualche intervista in TV, però. Vabbè, non allora è facile da spiegare, ma perché ci vuole anche molto tempo. Cara Mistress, noi ci sentiamo per una seconda puntata, Volentieri, perché voglio parlare soprattutto del perché le persone vengono da lei a farsi fare queste pratiche. Certo, mi piacerebbe spiegare quello che provano le persone, e certo, soprattutto che siamo persone un molto branco di disadattati, disadattati, persone normali. Ma un branco, ma uno che si beh, normali, però adesso scusami, ma non può essere normale. Ma perché deve essere normale? Uno che va uno che si può mettere un guinzaglio. Ma non è normale. E perché che chi è perché più normale? Ma certo, sicuramente più normale uno che delle domeniche segue le partite di calcio. Beh, adesso sta, sì, forse sì. Magari seduto sul divano mentre la moglie se ne va a trombare in giro perché si è rotta i coglioni del marito. Va bene, ce lo spiega meglio nei prossimi giorni. Arrivederci. A domani 18:30. Ciao. Vieni qua che ti frusto e ti sodomizzo. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siete due delinquenti, due grossi delinquenti. Radio 24, la passione si sente.